Effetto Mondo. As part of this new credentialing process, chokeholds will be banned, except if an officer's life is at risk. Ciao Giulia, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno. Il nostro era Trump. Il nostro Trump che ieri, un po' a sorpresa, ha annunciato con una certa tempestività un executive order, quindi un po' l'equivalente dei nostri ormai famosi decreti del Consiglio dei Ministri, cioè è un provvedimento che ha un effetto immediato ed è un riguarda le nuove regole per la polizia, non esattamente una riforma ma comunque un inizio. E in particolare in questo breve brano che abbiamo sentito dice: elimineremo il cosiddetto chokehold, che vuol dire la presa, in realtà è un termine che addirittura viene dal judo, comunque la presa per impedire il respiro. In questo caso naturalmente sappiamo per George Floyd è stata fatta con il ginocchio, gli è stato impedito di respirare con il ginocchio, a meno che, dice Trump, la vita del poliziotto non sia in pericolo, allora in quel caso è ancora permessa. Su questo titolano moltissimi quotidiani, a cominciare dal Washington Post, che sappiamo è di proprietà di Jeff Bezos e non è propriamente favorevole a Trump, è sempre molto critico, ma è un articolo molto neutro che dà conto di questo annuncio importante fatto da Trump. Poi alcune organizzazioni ovviamente avrebbero voluto di più, però è un passo importante. Abbiamo anche un secondo audio, è un'intervista fatta dalla CNN a una poliziotta nera che qualche anno fa fu licenziata perché aveva cercato di fermare un suo collega che stava in effetti soffocando una persona che stavano arrestando. Lo ha fermato, la persona si è salvata, e però lei è stata licenziata. Se vuoi sentiamo le sue parole. Sentiamo. It was heartbreaking because I know that he did not have to die had one of those officers stepped in and intervened. And you know, from my situation I understand that I did stop the chokehold and he does live. Cosa dice questa poliziotta? Dice vedere il video di George Floyd per me è stato heartbreaking, cioè mi ha spezzato il cuore, perché ho visto che non avrebbe potuto salvarsi George Floyd se l'altro poliziotto fosse intervenuto, cioè il compagno di pattuglia di Derek Chauvin. Io ho fatto questo, la persona vive, però appunto poi dopo si spiega anche che lei è stata licenziata. Ci sono anche richieste da parte di alcuni sindacati della polizia di reintegrarla, ma per lei ormai è storia passata, però è chiaro che quando rivede episodi simili a quelli che ha vissuto lui, che ha vissuto lei, appunto la reazione è questa, heartbreaking, cioè il cuore si spezza. Giulia, perché molti giornali inglesi titolano Rashford 1, Johnson 0? Sì, è una. Ci sono, l'Independent ha proprio la foto di un bellissimo gesto atletico di questo giocatore del Manchester, perché è un giocatore nero che ha lanciato questa campagna, come molti giocatori è impegnato, anche Messi è impegnato da tantissimi anni, per dire, insomma, come ambasciatore dell'UNICEF, è impegnato a favore dei bambini più poveri, spesso vanno a giocare con il Manchester nelle scuole per aiutare, insomma, come possono con la loro fama ad alleviare magari appunto il disagio dei bambini più poveri, e però ha promosso questa campagna e si era anche proposto di finanziarla in parte, naturalmente guadagna tantissimi soldi, per garantire quel pasto caldo che possono avere nelle scuole i bambini che appunto magari a casa non hanno un pasto come si deve, durante l'estate della chiusura delle scuole, perché molte scuole nel Regno Unito non riapriranno. A questo punto è probabilmente questo lo scenario. E all'inizio Johnson e il governo Johnson aveva detto: no, noi non possiamo finanziare questo programma. È stato talmente tanto il clamore sui social network di questa iniziativa che ieri Boris Johnson, naturalmente pubblicizzando adeguatamente la cosa, ha telefonato a questo giocatore e gli ha annunciato, e poi ha annunciato con un comunicato ufficiale, questo COVID Food Program, COVID Summer Food Program, Food Fund, anzi scusate, sì. Quindi un fondo da 12 milioni di sterline, quindi circa 14 milioni di euro, per appunto garantire a tutti i bambini che hanno bisogno, anche se non ci sarà lezione, in qualche modo verrà loro garantito e fatto avere questo pasto a spese del governo. Quindi un'iniziativa Dimmi, scusa. No, no, no, ti stavo ascoltando il finale di questa storia dalla Gran Bretagna. Giulia, invece in Germania tante notizie dal Bayern campione al piano per la Lufthansa, vero? Sì, abbiamo parlato settimana scorsa di questa estrema difficoltà in cui la Lufthansa, che è l'ex compagnia di bandiera, nel senso che una volta era, aveva una forte partecipazione di Stato, poi era stata privatizzata e adesso, come sappiamo, per salvarla lo Stato tedesco entrerà nel capitale e naturalmente a questo punto ci saranno anche dei cambiamenti, ci sarà anche un ridimensionamento degli organici, però il tutto sembra per ora condiviso con i sindacati, quindi la Frankfurter Allgemeine Zeitung parla di questo, poi si parla anche della novità di cui avete parlato anche col professor Bassetti da Genova, che naturalmente è anche su tutti i quotidiani britannici, sottolineando in particolare quanto poco può costare questa terapia. Il Guardian parla di 50 pence, cioè 50, mezza sterlina. Tra l'altro molti sottolineano che questo desametasone in realtà è inserito da tantissimi anni nella lista dei farmaci salvavita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne contiene una ventina, quindi non sono poi tanti, però appunto è considerato già da tanto tempo un farmaco salvavita, come tutti i farmaci derivati dal cortisone, ha moltissime applicazioni, anche molti effetti collaterali, però è sicuramente, ha un effetto tra l'altro immediato, cioè rispetto a molte altre terapie, quindi naturalmente i giornali britannici, anche giustamente sottolineando che è una cosa che viene da Oxford, danno a questa notizia insieme a Rashford 1, Johnson 0, molto rilievo. Sì, molto spazio. Giulia, Spagna, se qualcuno pensava che gli stati generali in Italia erano troppa cosa, cosa penserà dei 100 economisti convocati da Sanchez? Sì, Sanchez per esempio è il Mundo e anche è il País, questi 100 esperti, forse rispetto alla task force di Colau, dove sappiamo c'erano esperti un po' di tanti campi, non solo dell'economia e della finanza, qui si tratta proprio di 100 economisti. El Mundo però per esempio è molto critico, un po' per le stesse ragioni per le quali sono stati criticati i comitati tecnici qui da noi, nel senso sembra che tutto sommato a questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti quello che si deve fare per rilanciare l'economia e instaurare un ennesimo comitato. Tra l'altro El Mundo ipotizza anche che sia un modo per Sanchez di rafforzare o comunque di rinsaldare alcuni rapporti un po' logorati con alcune parti della sua coalizione, tra le quali Podemos, avere anche l'appoggio dell'opposizione, insomma la politica come sempre adesso si riprende un po' la scena e vedremo se poi le proposte, esattamente come sta succedendo in Italia, tecniche, verranno poi accolte e con quali tempi, si chiede per esempio a Bessé, che però è molto critico verso il governo Sanchez su queste proposte. Ok, grazie. Ciao Giulia, è tutto per oggi. Ciao, a domani. Con Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizio. Ciao, buona giornata.